Rassegna stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Buongiorno da Giulia Crivelli e buon sabato. È una settimana in cui naturalmente si è parlato moltissimo di calcio. Ne parliamo anche noi perché sappiamo che questa è stata la prima volta che una squadra europea ha vinto un mondiale di calcio nel grande continente sudamericano, quindi perché no? Ha vinto la Germania, io lo so, gli ascoltatori forse lo sanno, sono mezza tedesca, quindi per me è stata una bella notizia. Allora vi faccio semplicemente una brevissima così rassegna di quello che hanno detto i giornali tedeschi, che naturalmente hanno sprecato entusiasmo, sono stati un po' poco compassatamente tedeschi, ecco, si sono lasciati un po' andare. La Bild, sappiamo, un giornale popolare da 8 milioni di abitanti, 8 milioni di lettori, scusate, addirittura titolato Götze, dio del calcio, il ragazzo che ha fatto il gol decisivo, lo sapete, a pochissimi minuti dalla fine del secondo tempo. La Süddeutsche Zeitung un pochino più compassata invece ha titolato Gott sei Dank, però è sempre questo un po' questo gioco di parole, perché il Gott sei Dank, che vuol dire grazie a Dio, si è subito trasformato in Götze sei Dank, quindi grazie a Götze, e così via. La Welt, che è un altro quotidiano abbastanza serio, ha titolato Es ist wahr, è vero, usando addirittura, cosa che sulle prime pagine non si era mai visto, sulla prima pagina di un giornale serio come la Welt, uno dei tre colori della bandiera tedesca per ciascuna delle tre parole, Es ist wahr. La Berliner Zeitung ha titolato Fino al sangue, scusatemi se sorrido un po', ma trovo che, insomma, così come quando avevamo vinto noi era stata molto molto enfatizzata questa vittoria, beh, l'ha fatto anche la Germania, abbiamo visto, hanno fatto anche alcune gaffe, insomma, lasciamo per una volta che anche i tedeschi si lasciano un po' andare. E questo era il mondiale, appunto il mondiale vinto da una squadra europea in Sud America. E sapete che questi, però, per passare a temi un pochino più seri, per così dire, sono stati anche i giorni delle nomine della Commissione Europea. Dico sono stati, però in realtà non è proprio così, perché avrebbe dovuto decidersi tutto tra giovedì e venerdì, in realtà poi non è stato così, è un po' tutto rimandato probabilmente al 30 di luglio. Però vediamo per esempio un retroscena, perché è un po' giusto capire anche come mai sono slittate queste nomine. Sapete che uno degli scogli, se ne è parlato tutta la settimana, è la nomina all'alto rappresentante per la politica estera, che dovrebbe essere un po' il ministro degli esteri dell'Unione Europea. Quante volte abbiamo detto che è una figura che forse proprio manca all'Unione Europea, quella di un vero e proprio ministro degli esteri. Si è fatto molto spesso il nome del nostro attuale ministro degli esteri Federica Mogherini, e si è detto, perché appunto di retroscena si parla, che è stato uno scoglio questo impuntarsi di Matteo Renzi sul nome della Mogherini. E allora Le Monde per esempio spiega appunto qualcosa su questa, o se quella che viene definita l'ossessione di Renzi per imporre un italiano. Philippe Ridet, sul suo, che è corrispondente da Bruxelles per Le Monde, spiega che la Mogherini viene considerata troppo filorussa, cita una fonte diplomatica secondo le quale l'Italia non ha mai brillato per la sua politica estera, e quindi perché premiarci con un incarico così importante quando in passato non abbiamo dato grande prova di noi. Si parla anche di piccole lotte interne, perché sapete che in passato si era fatto anche il nome di Massimo D'Alema e di Enrico Letta. Ma a parte questo, la seconda ragione che Le Monde intravede in questa ostinazione di Renzi è che di fronte alle riforme che si annunciano più complicate e lunghe del previsto da mettere in atto, Renzi deve strappare qualche piccola cosa al più presto per dimostrare agli italiani, a noi italiani, che hanno fatto bene a fidarsi di lui con quel famoso 40,8% dei voti alle europee. In breve, il capo del governo si accontenterebbe di ottenere un posto per l'Italia, anche simbolico, purché arrivi presto e non lo occupi Enrico Letta. E questa è un po' la lettura di Le Monde. Ma vedremo, insomma, perché appunto c'è ancora qualche giorno, ci saranno discussioni, ci saranno compromessi, e poi finalmente avremo il nome dei commissari e avremo il cosiddetto governo dell'Unione Europea pronto. A proposito di governi, sapete che c'è stato quello che in inglese si chiama un reshuffle, che noi in italiano chiamiamo rimpasto. Non siamo, in passato siamo stati i campioni dei rimpasti di governo, però non siamo l'unico paese che li fa, e ce n'è stato uno di recente in Gran Bretagna, di recente, nei giorni scorsi proprio. E allora vediamo un po' come ne ha parlato la stampa inglese. C'è chi ha parlato di purga e chi di bagno di sangue. Il Guardian infatti ha parlato addirittura di un rimpasto pasto drammatico, perché il premier britannico Cameron ha proprio fatto uscire dal suo governo dei veterani del suo partito, il Partito Conservatore, come il ministro degli esteri William Hague, che però era stato criticatissimo sia prima delle elezioni europee del 25 maggio sia dopo, e poi il ministro senza portafoglio, però grande, molto vicino a David Cameron, Kenneth Clark. Per il Times invece sono 15 posti ministeriali che hanno visto un rinnovamento in quella che viene definita una purga selvaggia. Però scrive il Times, che è un giornale diciamo conservatore, quindi politicamente vicino a Cameron, a differenza del Guardian, a Hague è stato lasciato l'onore di annunciare le sue dimissioni. Secondo Financial Times, Cameron si è scagliato contro gli uomini pallidi e stantii del suo partito, e nel caso di Financial Times sicuramente non è un quotidiano così di sinistra, però è anche forse di quelli che abbiamo citato quello che guarda poi più alla sostanza delle cose più che ai risvolti politici. Quindi scrive Financial Times, Cameron si è scagliato contro gli uomini pallidi e stantii del suo partito, ministri di mezza età che sono stati sostituiti in alcuni casi da donne più giovani per dare un'immagine di partito conservatore rinnovato in vista delle elezioni del 2015. Ecco, ricordiamo che sono due i grandi appuntamenti che Cameron probabilmente ha preso in considerazione facendo questo rimpasto. Il primo è quello delle politiche del 2015, dove si dovrà soprattutto vedere, scrive ancora Financial Times, se il partito di Nigel Farage, che attualmente dopo le elezioni europee è quello che ha preso più voti in Gran Bretagna, manterrà questo grande successo presso il pubblico, e l'altro appuntamento è il referendum per l'indipendenza della Scozia. Anche in questo caso Cameron dovrà poi trarre le sue conclusioni. Passiamo un po' al New York Times, perché c'è un'altra questione di cui ci siamo occupati, poi ce ne siamo un po' dimenticati, che è quella delle sanzioni da imporre alla Russia per quello che è successo in Ucraina. E gli Stati Uniti sono andati avanti su questa strada delle sanzioni, mentre l'Unione Europea le ha annunciate, alcune le ha implementate, poi si è tirata indietro. E allora il New York Times scrive, sottolinea, che c'è tuttora divisione tra Stati Uniti e Unione Europea per quanto riguarda il peso delle nuove sanzioni da imporre alla Russia. Barack Obama ha spinto sull'acceleratore imponendo nuove misure, le più pesanti dall'inizio dell'intervento di Mosca nella crisi ucraina, che sappiamo sono sanzioni economiche, quindi colpiscono banche, aziende del settore energetico e della difesa. Washington però è andata un pochino oltre, ha imposto limitazioni finanziarie e il divieto d'ingresso negli Stati Uniti a una decina di persone, vietando alle società prese di mira l'accesso al mercato del debito americano. E qui c'è un aspetto interessante sottolineato ancora una volta da Financial Times, perché è vero, è un po' sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi di chi segue la questione, che l'Unione Europea ha avuto un atteggiamento diverso rispetto agli Stati Uniti sulla questione Russia-Ucraina. Però secondo Financial Times, mentre in un primo tempo era stata la Germania a bloccare sanzioni più dure contro la Russia, perché sapete che la Russia è il primo partner commerciale della Germania, adesso sarebbe in realtà l'Italia. Questo l'ha scritto appunto Financial Times questa settimana, ma in realtà il governo ha respinto queste accuse, così come del resto le aveva respinte la Germania qualche settimana fa. E ci sarebbe, secondo Renzi, secondo quanto si dice in ambiente europeo, ci sarebbe in realtà una linea comune tra Germania, Francia e Italia per quanto riguarda queste sanzioni. Torniamo un attimo sul New York Times, e anche qui alterniamo un po' notizie di peso specifico diverso, perché sicuramente la questione Ucraina-Russia si riproporrà, e si riproporrà con forza a mano che poi si avvicina l'inverno e si ripropongono tutte le questioni dello scacchiere geopolitico e geoenergetico, diciamo così. Ecco, alleggeriamo un pochino, torniamo però sul New York Times, che si è occupato, grazie a un intervento rilasciato da Dario Franceschini, il nostro ministro della cultura, si è occupata dei nostri monumenti e di quanto abbiano bisogno di sponsorizzazione. Gli Stati Uniti sono un paese abituato con una lunghissima tradizione di mecenatismo, di sponsorizzazione di biblioteche, musei, interventi su beni storici, noi molto meno. E allora scrive il New York Times, la Fontana di Trevi non è certo in vendita, però come tutti gli altri monumenti italiani ha bisogno di soldi dei privati per sopravvivere. E allora appunto Franceschini ha usato il New York Times, che resta il più autorevole quotidiano americano, per dire: le nostre porte sono spalancate per tutti i filantropi e donatori che vogliono legare il loro nome a un monumento italiano. E ha citato anche comunque gli interventi che sono stati fatti dagli italiani, uno per tutti, quello di Diego della Valle di Todds per il Colosseo, che ha già speso 25 milioni, però ha anche parlato di altre aziende come Bulgari, che in realtà appartiene a un gruppo francese, LVMH, che ha donato 2,12 milioni per restaurare la Fontana di Trevi. E questo è un problema molto italiano, però anche un pochino europeo, e quindi c'è un po' il confronto tra appunto le prassi europee in questi casi, con queste ritrosie a mescolare privato e pubblico, e invece la prassi americana, dove questo steccato tra intervento dei privati per i beni pubblici praticamente non esiste. Un'ultimissima segnalazione dalle Figaro, perché sapete che giovedì Microsoft ha annunciato che procederà con 18.000 licenziamenti, perché anche Microsoft ha troppi dipendenti, alcuni di questi saranno per forza di cose in Europa. E allora Le Figaro, il ministro dell'Unione Europea dell'Occupazione, Laszlo Andor, ha usato questo giornale per chiedere di incontrare quanto prima i vertici di Microsoft, perché se di licenziamenti si tratterà, sarebbe bello che Microsoft, secondo anche qui standard europei che forse a Microsoft suonano un po' strani, sarebbe bello che questa grande azienda consultasse anche magari le autorità europee, o si cercasse di trovare la soluzione più indolore possibile per l'occupazione in un momento così difficile per il mercato del lavoro europeo. Era l'ultima segnalazione, un grazie, un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.